come noi, voglio farvi pensare e allargare la vostra prospettiva. Milioni di persone ogni settimana, ogni domenica in tutto il mondo si riuniscono insieme proprio come noi per riconoscere che Gesù è vivo, per riconoscere che Lui può cambiare. E tutto questo, tutto quello che noi viviamo ogni settimana è possibile perché qualcuno a un certo punto della storia dell'umanità è venuto e ha cambiato le regole del gioco. È venuto e ha cambiato tutto. Ha cambiato ogni cosa. Perché a un certo punto il Padre ha visto che l'intera umanità aveva bisogno. L'intera umanità aveva bisogno. E ha mandato suo Figlio che è venuto su questa terra e ha cambiato ogni cosa, dando a noi la libertà di poter essere qui perché si è sacrificato su quella croce, ha vinto la morte, è risorto dopo 3 giorni e Gesù è vivo. È per causa sua che oggi siamo nell'anno 2015. Noi possiamo crederci, noi possiamo non crederci, possiamo avere rivelazione, possiamo non avere rivelazione. Domani mattina tu ti sveglierai e sarà 26 ottobre, anno 2015, perché Gesù è venuto e Lui ha cambiato la storia. Lui ha cambiato i numeri che tu metti davanti al tuo calendario. Lui ha cambiato quello che tu vivi ogni giorno e Lui oggi può ancora cambiare. Non lo ha fatto solo quando è venuto, non l'ha fatto solo quando è morto, non l'ha fatto solo quando è risorto, ma Lui oggi può cambiare la tua vita, può scrivere un nuovo destino per te. Domani può essere diverso. Non è ancora detta l'ultima parola sulla tua vita. Non è ancora detta. Questo era un segreto, non dirlo alla persona accanto a te, sennò poi si entusiasma troppo. Lui può cambiare la tua storia. Lui può cambiare la tua famiglia. Lui può cambiare il fallimento che stai vivendo. Lui può cambiare la malattia che stai affrontando. Il tuo domani ha la possibilità di essere diverso da come tu lo hai pensato oggi. Dì alla persona accanto a te, domani sarà diverso per te. Dillo all'altra. Però non glielo devi dare con questa pacchettina un po' da nonnetto. E domani sarà diverso per te. Questa sera vogliamo leggere insieme dalla parola di Dio 3 storie di 3 persone diverse che avevano un domani pensato e segnato, ma che Gesù ha incontrato e ha cambiato. Ci piace? Non so tu cosa hai pensato per il tuo domani. Non so la vita cosa ha segnato per il tuo domani. Ma so che Gesù è vivo e Lui sta aspettando te nel tuo domani. Lui sta aspettando te nel tuo domani. Dì alla persona accanto a te, il tuo domani non è come pensi. Poi la devi prendere, alzati Gianni, alzati. La devi scuotere e devi dire così, no? Gesù ti sta aspettando! Pure a te! Prendi la persona accanto a te, scuotila! Ha bisogno di essere scossa. Gesù ti sta aspettando. Prima storia. Stasera leggeremo tanta Bibbia, perché non voglio essere io a dire qualcosa, ma io so che Gesù ti sta aspettando, ti stava aspettando oggi per dirtelo. E quando lui ce lo dice, lui non ce lo dice così, con una nuvola che appare e una voce dall'alto che ci dice una cosa strana, tu camminerai sulle acque. No, quando Gesù ci deve parlare, cosa dobbiamo fare? Aprire la Bibbia, bravissimi. E quello faremo stasera, lo faremo insieme. Prima storia, Luca, Vangelo di Luca, capitolo 7. Siete con me? La vogliamo leggere? Lo leggiamo dal verso 11. Poco dopo, Gesù, sta parlando di lui, si avviò verso una città chiamata Nain e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse, «Non piangere!» E avvicinatosi toccò la bara e i portatori si fermarono ed egli disse, «Ragazzo, dico a te, alzati!» Il morto si alzò e si mise seduto. E cominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo «Un grande profeta è sorto fra di noi e Dio ha visitato il suo popolo». E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Gesù ci sta aspettando domani nella nostra sofferenza. Gesù ci sta aspettando domani nella nostra malattia. La vedova era uscita di casa pensando che sarebbe andata a celebrare un funerale. La vedova era uscita di casa perché avrebbe seppellito suo figlio. La morte l'aveva segnata. L'aveva segnata più di una volta. Ma quando lei ha pensato che il suo domani e nel suo domani lei sarebbe rimasta sola, Gesù la stava aspettando per incontrarla, per cambiare il suo domani, per dirle che lei non sarebbe stata più sola, per dare una speranza nel suo domani. Forse ci sono delle persone che ti sono state tolte e che non ti potranno più essere ridate. Ma domani non sarai solo. Domani non sarai sola. Gesù ti sta aspettando. Lui ti sta aspettando per vivere con te e darti una speranza di una vita piena. E darti una speranza di una vita abbondante, darti una speranza di una vita che ha valore e che ha significato. Forse domani ci sarà ancora quella malattia che sembra non finire mai. Quante volte hai pregato? Quante volte hai messo una richiesta? Quante volte, come diciamo noi, mi sono fatto pregare? Sei andato pure a ritiro e ti sei fatto pregare pure a ritiro. Questo era per addrizzare la manica, non era perché indicavo. Quante volte domani forse ti sveglierai e quella malattia sarà lì. Una malattia che ti angoscia, che angoscia te, che angoscia tutte le persone intorno a te. Ma domani Gesù ti sta aspettando. Domani Gesù ti sta aspettando per portare la sua vita, quella vita vera, quella vita eterna, quella vita che vuole entrare nella tua situazione. Nella tua sofferenza di domani Gesù ti sta aspettando. Dì alla persona accanto a te, rendilo partecipe. Coinvolgi Gesù. Seconda storia. Pronti per la seconda storia? Mi piace, mi piace. Giovanni. Gesù compie miracoli, fa tantissime cose. Vedete cosa Giovanni scrive nell'ultima parte del capitolo 20? Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro. È incredibile! Gesù ha fatto così tante cose che una biografia non basterebbe. Tante persone hanno fatto tante cose e le loro biografie forse diventano dei volumi. La biografia di Gesù non si può scrivere tutta. Non riesci, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. È di questa vita che noi stiamo parlando stasera. Affinché credendo domani noi possiamo avere vita nel suo nome. E continua al capitolo 21 e dice: dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme, un po' come noi. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca. E quella notte, caso strano, non presero nulla. Quando già era mattina, ascoltate adesso, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: figliuoli, avete del pesce? E gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dall'alto destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore! È Lui! Non è morto! È vivo! E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo, si gettò in mare, ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non era molto distante da terra. Erano a circa 110 metri, questa è la misura dei cubiti. E trascinando la rete con i pesci, appena scesero a terra, videro la brace e del pesce messo vi su e del pane. E Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a far colazione. Venite a far colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore Gesù, Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero fatto colazione, a stomaco pieno, Gesù disse a Simon Pietro, e guardate come lo chiama, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Ed egli rispose, sì Signore, tu sai che io ti voglio bene. E Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose, sì Signore, tu sai che io ti voglio bene. E Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. E Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Seconda cosa che impariamo dalla seconda storia che leggiamo è che Gesù ci sta aspettando domani nel nostro fallimento. Gesù ci sta aspettando domani nella nostra delusione. Gesù ci sta aspettando domani nella nostra vergogna. Pietro aveva pensato che non gli era rimasto niente altro da fare che ritornare a pescare. La prima vera cosa che lui aveva lasciato per seguire Gesù, la cosa che aveva definito quello che lui era, e cioè Simone, un pescatore che in tutta una nottata non riesce a prendere neanche un pesce, perché è così che Gesù lo incontra, ritorna a non prendere neanche un pesce. Aveva sacrificato ogni cosa. Simone aveva sacrificato ogni cosa ed era diventato Pietro. Aveva ricevuto delle promesse. Aveva fatto delle promesse. Aveva fallito nel fare le sue promesse. E il fallimento che aveva assaporato aveva permesso a lui, lui aveva permesso a quel fallimento che aveva assaporato di segnarlo. Si era lasciato segnare dal fallimento che Gesù gli aveva detto che lui avrebbe fatto. Si era lasciato segnare dalla delusione di non avercela fatta. Si era lasciato segnare dalla vergogna per aver fallito. Ma proprio quando ha iniziato a pensare come Simone di Giovanni e a ritornare da dove lui era venuto, Gesù lo ha incontrato. Gesù lo stava aspettando per ricordargli che era proprio Simone di Giovanni quello che lui amava. Era proprio Simone di Giovanni che lui aveva chiamato a pascere le sue pecore. Perché domani Simone di Giovanni, passo dopo passo, sarebbe diventato Pietro. Forse hai fallito. Io non lo so perché, ma il fallimento è così pesante per noi. Forse è più pesante di tutte le altre cose. Forse hai fallito e qualcuno direbbe di te, tanto per cambiare. E sei stanco, e sei deluso, e sei nudo, e ti trovi in questa barca e non sai neanche perché ci sei salito su questa barca. E ti trovi a stringere nelle tue mani una rete vuota, che non ha nulla, e sei rimasto con un pugno di mosche in mano. Tuffati! Tuffati! Salta giù da quella barca. Salta giù perché Gesù ti sta aspettando. Arriva. Gesù ti sta aspettando perché vuole fare colazione con te. E lui non è preoccupato che tu hai fallito. Lui lo sapeva. Lui vuole essere con te adesso, che tu ti senti fallito. Gesù vuole mangiare con te, vuole farti mangiare, vuole amarti, vuole riempirti della sua grazia che cambia la tua vita, che trasforma le tue circostanze, che determina un destino diverso, che cambia il tuo destino. E non era importante per Gesù sapere che Simone di Giovanni lo amasse. Gesù lo sapeva. Gesù sapeva che Pietro lo amava. Era importante per Simone di Giovanni riconoscere che nonostante tutto lui lo amava. È importante per te riconoscere che nella tua delusione e nella tua vergogna tu comunque lo ami. La verità è che nel fallimento di domani Gesù ti sta aspettando. Nel tuo fallimento di domani Gesù ti sta aspettando. Rendilo partecipe. Dì alla persona accanto a te, coinvolgilo. Lo so che sul fallimento cade una nuvola cupa. Ma è così. Così tante volte pensiamo che Gesù si è girato e se n'è andato e non si ricorda e non ci vuole più. Lui sta aspettando te domani quando tu fallirai. Lui ti sta aspettando. Terza storia, la vogliamo leggere? Vi sentite un po' incoraggiati? Lo volete incontrare? La leggiamo dagli Atti degli Apostoli al capitolo 9. E questa è una storia molto interessante. Dal verso 1. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, questo era il modo che definiva i cristiani in quel periodo, uomini e donne li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, d'improvviso, sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo! Saulo! Perché mi perseguiti?» Egli si domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitare contro il pungolo». Egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» E il Signore gli disse: «Alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Ora si fa interessante. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione: «Anania!» E lei gli rispose: «Eccomi, Signore, che bello che mi stai chiamando!» E il Signore a lui: «Alzati e va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista». Ma Anania rispose: «Signore, non sono più contento che mi hai chiamato. Ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme e proprio a me. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti che si è fatto dare la lettera per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome». Cioè, e dove vado giusto io? Manda Pietro. Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome». La terza cosa che impariamo dalla terza storia è che Gesù ci sta aspettando domani nella nostra opposizione. Gesù ci sta aspettando domani nel nostro andare contro di Lui. Saulo pensava che sarebbe andato a Damasco per continuare con il successo che lo contraddistingueva ad uccidere tutti i cristiani che tanto odiava. Ma Gesù lo stava aspettando per segnare e cambiare la sua vita per sempre, rivelargli il destino che lui aveva preparato per Paolo e non per Saulo. Forse fino ad oggi ti sei ostinato a fare Saulo. Davanti a tutto quello che Gesù ha preparato per te, tu vuoi fare Saulo. È arrivato il momento di riconoscere la vita da Paolo che domani sta aspettando te per essere vissuta. E credo che questa sia una parola specifica per qualcuno. Ti stai ostinando ad andare contro. Forse devi riconoscere che c'è una vita da Paolo che ti sta aspettando domani. Tua, la tua vita. O forse nel tuo domani Gesù sta aspettando un Saulo che possa diventare un Paolo. Forse sei circondato di persone, lasciatemi passare questo termine, alle quali tu pensi che non gliene frega niente di Dio. Gliel'hai detto cotto, gliel'hai detto crudo, gliel'hai detto marinato, gliel'hai detto in salsa piccante, gli hai messo pure la salsa piccante, come si dice a Bari. Ma Gesù ha messo te nel loro domani per aspettare di incontrarli. Proprio te! Nelle tue parole, nel tuo atteggiamento, nelle tue preghiere, nel tuo dare lui praticamente. C'è un minimo comune denominatore in ogni storia che abbiamo letto e c'è un filo conduttore che unisce ognuno che Gesù stava aspettando di incontrare. Tutte le altre persone il cui domani sarebbe cambiato perché Gesù le stava aspettando. C'è un filo conduttore che unisce ognuno che Gesù stava aspettando di incontrare. La vedova, Simone di Giovanni, Saulo. E il filo conduttore sono tutte le altre persone il cui domani sarebbe cambiato perché Gesù le stava aspettando. Il domani di tutta la Giudea e tutto il paese intorno a Nain, leggiamo, abbiamo letto nella storia di Luca, cambiò perché nel suo dolore una vedova aveva incontrato Gesù. Il domani dei discepoli e di tutta Gerusalemme e l'inizio di tutta la Chiesa, perché la Chiesa iniziò, cambiò perché Simone di Giovanni nel suo fallimento aveva incontrato Gesù. Il domani di tutto il Mediterraneo cambiò. Noi siamo qui oggi perché Gesù fu predicato ad ogni persona attraverso la conversione di Paolo. Perché Saulo, nel suo uccidere i cristiani, aveva incontrato Gesù. Chissà chi c'è nella tua vita che uccide i cristiani, che sta aspettando di incontrare Gesù. Questa è amara. Il domani della tua famiglia, dei tuoi colleghi, dei tuoi amici, dei tuoi vicini, delle persone che puoi incontrare, cambiò. E mi piace usare il passato remoto perché io sono convinto che dopodomani qualcuno scriverà questa storia e scriverà che il domani della tua famiglia cambiò e scriverà che il domani dei tuoi colleghi cambiò e scriverà che il domani dei tuoi vicini cambiò perché domani Gesù ti sta aspettando nel tuo fallimento, nella tua vergogna, nella tua delusione, nel tuo dolore, nella tua sofferenza, nella tua ribellione. Domani Gesù ti sta aspettando. Lui vuole incontrarti perché lui vuole incontrare. C'è stata sempre una cosa molto difficile per me nella mia vita da affrontare con Gesù, una cosa per cui non credevo che avrei avuto domani, ed era l'area delle relazioni, la mia area sentimentale. E io oggi vedo la mia vita e vivo il mio domani, è una bellissima moglie. E ho fatto un bellissimo viaggio di nozze. Ed è incredibile come in questo bellissimo viaggio di nozze io e mia moglie ci siamo imbattuti nel domani di una donna, di cui puoi far vedere la foto, Vito, che abbiamo incontrato in Polinesia francese, italiana, napoletana, che stava aspettando Gesù. Non c'è stata cosa più bella di questo viaggio, di imbatterci in lei, che è stata la nostra guida per 2 giorni. E io avevo pensato che avevamo dato abbastanza, no? Ci siamo sposati, avevamo fatto una cerimonia fantastica, non per noi, per i nostri amici che non conoscevano Gesù. Ho detto, ora faccio il viaggio di nozze, questo è per me. Gesù stava aspettando qualcuno dall'altra parte del mondo per incontrarlo. E voglio farvi vedere questa clip, se c'è. Si sente l'audio? Sta dando Gesù. Va, vai, rimettila. Problemi tecnici, perdonateci. E non... Sapete qual è la cosa più bella? Che la mia cocchina Morina sta dando Gesù alla nostra guida di questa giornata. E non c'è cosa più bella per me di vedere la mia mogliettina fare quello che sa fare meglio, cioè dare Gesù alle persone che hanno bisogno di lui. E lei adesso glielo sta dando. E io mi sono fatto dietro, perché so che lei è molto più brava di me a farlo. E io la amo perdutamente anche per questo. Anzi, forse questa è la prima motivazione per cui io la amo perdutamente. Perché lei non vede l'ora di dare Gesù in maniera disperata a tutte le persone disperate che non lo conoscono. E io la amo molto. Lei non lo sapeva che avrei fatto vedere questo video, se no non me l'avrebbe fatto proiettare. Magari, visto così, può sembrare tutto facile, tutto bello, no? Ma la verità è che io so le volte che il mio domani non sembrava così. Io so le volte che non mi sono presentato all'appuntamento dove Gesù mi stava aspettando. Perché dal 1 settembre 2002 io sapevo che questo era quello che lui aveva preparato per me. 1 settembre 2002. Ci sono tanti domani, fino al 15 settembre 2015. E io ho fallito tante volte. E tante volte ho fallito nel sapere che lui mi stava aspettando. E forse tu stasera ti senti così. Ti senti che hai fallito tante volte. Ti senti che hai sofferto così tanto. Che domani... Chi lo sa chi ti sta aspettando? C'è speranza. Gesù ti sta aspettando. E senza che ci alziamo in piedi, abbassiamo le luci, chiudiamo i nostri occhi, facciamo questa cosa per evitare di vergognarci, chi se ne frega? Se tu sai che hai bisogno domani, che Gesù ti aspetti nella situazione in cui tu ti trovi oggi, io voglio invitarti ad alzarti in piedi adesso, con occhi aperti, con le luci accese, davanti a tutti, perché Gesù è già lì pronto ad aspettarti, e lo possiamo fare adesso, perché io voglio pregare. E questo non è un appello per tutti. Questo è un appello per te, perché tu sai che Gesù ti ha parlato, e io voglio pregare per te. Signore Gesù, io ti ringrazio. Io ti ringrazio perché tu aspetti. Aspetti noi sempre. Io ti ringrazio perché domani io ho una certezza, e quella certezza è che tu mi stai aspettando. Io ti ringrazio perché ognuno che ha preso posizione stasera di riconoscere che tu lo stai aspettando, possa venire da te domani, possa non fare finta di non averti visto. E io ti ringrazio, Signore Gesù, perché al di là di quello che noi viviamo, al di là di quello che sono le nostre sofferenze, al di là di quello che sono le nostre malattie, al di là di quello che è il nostro fallire nel voler fare quello che tu ci chiedi di fare, noi ti ringraziamo, Signore Gesù, perché noi sappiamo che anche nel punto più brutto della nostra vita, domani tu ci stai aspettando. E io prego e confesso che noi possiamo essere una chiesa che sa che domani tu ci stai aspettando, che possiamo vivere, Signore Gesù, con aspettativa, che questa sera possiamo scegliere di spegnere quella TV, di chiudere quelle situazioni che non vanno e di far parlare te, che conosci il nostro domani meglio di tutti gli altri. E io ti ringrazio e noi ti ringraziamo, Signore Gesù, perché sappiamo che abbiamo certezza nel fatto che tu sei fedele e tu ti presenterai. Signore, aiutaci a presentarci noi stessi. Aiutaci a non lasciarti lì ad aspettare noi. Te lo chiediamo nel tuo nome santo, Signore Gesù. E dove noi non abbiamo le forze per farlo, io ti prego che tu possa venire incontro a noi per cambiare la nostra situazione. Nel tuo nome dichiariamo tutto questo, Signore Gesù. Amen. Amen. Lui ti sta aspettando, non solo per te. Lui ti sta aspettando perché qualcun altro vedrà che Gesù ti stava aspettando nel tuo fallimento. E quella persona dirà, mo. Allora è vero il fatto. Allora vale. Allora non è a chiacchiere. Allora Gesù è vivo. E lui è il centro. Io vorrei che noi potessimo dichiararlo. Ti sei alzato, non ti sei alzato, tu lo sai. Dichiara che lui è il centro. Alziamoci tutti in piedi. Dichiariamo davanti a lui che lui è il centro. È il centro del nostro domani, è il centro di quello che stiamo vivendo. Lo vogliamo fare?